Indie Radio, il programma di informazione indipendente curato non si sa da chi. Un programma anonimo. Ebbene sì, questo programma di informazione indipendente che potete ascoltare ogni venerdì, generalmente alle ore 21, ma questa sera abbiamo preferito anticipare per alcune motivazioni molto molto importanti. Dunque, quest'oggi parleremo di vari argomenti. In primo luogo ci occuperemo della discarica dell'emergenza rifiuti in Calabria, in particolare quello che sta accadendo sullo Ionio, e poi, sempre rimanendo sullo Ionio, parleremo ancora degli scavi di Sibari. Ecco che arriva il salvatore della patria, l'assessore regionale Caligiuri, che dice di stanziare soldi, vabbè. E poi, sempre ancora parlando di questo grande assessore Caligiuri, parleremo dei testi unici che vuole riformulare per quanto riguarda la regione Calabria in materia di scuola e università. E infine ricorderemo la campagna Il 15 settembre c'ero anch'io. Prima di tutto, comunque, una piccola nota. Come avrete potuto notare negli ultimi mesi, transizione di fase, diciamo che sta subendo un periodo di stasi, però a breve, speriamo, a breve ritorneremo comunque con la nostra abituale programmazione. Dunque, la prima notizia è quella che vi dicevo dei rifiuti in Calabria. Continua, insomma, questa emergenza su tutto il territorio regionale. Il commissario all'emergenza rifiuti dimostra, e la regione Calabria ovviamente, dimostra tutta la sua incapacità a affrontare il problema. Infatti non si parla, come sapete bene, di provvedimenti seri volti a risolvere il problema, che potrebbero essere per esempio la raccolta differenziata spinta, per non parlare poi dei rifiuti zero, ma siamo nel regno dell'utopia. E invece si continua e si preferisce parlare ancora una volta di discariche, discariche da riaprire e discariche nuove magari da costruire o inceneritori. Nelle scorse puntate infatti abbiamo ricordato quello che sono per esempio questi progetti che parlano di una costruzione nel Cosentino, fra Rende e non sappiamo bene dove, di un cosiddetto termovalorizzatore. E costruire termovalorizzatori significa in realtà abbandonare l'idea di costruire di avviare, come dicevamo prima, delle vere e proprie soluzioni al problema, che sono ad esempio la raccolta differenziata. Dunque, leggiamo questo comunicato stampa della rete di difesa del territorio Franco Nistico, che appunto ripete proprio quello che dicevamo prima, ovvero che la regione è incapace di gestire i rifiuti. È ora di dare spazio alla raccolta differenziata gestita dalle comunità. La paventata apertura della discarica di Scalaceli, che nelle prossime settimane vedrà i comitati territoriali, ma anche i numerosi esponenti delle istituzioni impegnati nel denunciare alle autorità giudiziarie le decine di gravi abusi che si stanno commettendo, ci offre l'esatta misura di ciò che oggi è la gestione dei rifiuti in Calabria. A corredo di 15 anni di gestione commissariale del governo, dove però le giunte regionali di ogni colore hanno di fatto deciso ogni cosa coprendosi dietro il commissario di turno, i provvedimenti contraddittori e vergognosi di questi giorni dimostrano senza ormai ombra di dubbio che la gestione dei rifiuti calabra è solo ed esclusivamente a vantaggio della speculazione privata, senza alcun riguardo per gli interessi e per l'incolumità sanitaria dei cittadini. Se il buongiorno si vede dal mattino, l'inizio della gestione regionale, con particolare riferimento all'assessorato all'ambiente, è veramente inquietante. I comitati territoriali da tempo propongono e lavorano per una gestione partecipata e pubblica dei rifiuti, la quale oggi, in piena emergenza, diventa quanto mai attuale e prioritaria. Lavoreremo per un tavolo politico istituzionale degli amministratori locali del territorio che scalzi un apparato regionale ormai palesemente inadeguato, e siamo sicuri che tutti gli amministratori che non hanno interessi e correlazioni col business dei rifiuti risponderanno con entusiasmo. Per quanto riguarda la gestione dell'emergenza attuale, nell'invitare una serie di esponenti politici ad evitare di scendere goffamente in questioni tecniche, cosa che peraltro non è richiesta al loro ruolo, abbiamo detto e ridetto in tutte le sedi che ci sono tutte le condizioni per superare le criticità senza aggravare lo stato rovinoso del nostro territorio. Basta puntare sugli impianti esistenti, i quali, dati alla mano, caratterizzano una vera e propria truffa ai cittadini, oltre a produrre un disastro ambientale. Impediremo la contaminazione di nuovi siti per un semplice motivo: complementare alla costituzione di un ciclo di rifiuti dal basso. Avvieremo una lotta senza frontiere per la bonifica dei tanti e numerosi disastri presenti sul nostro territorio, causati in modo fraudolento dall'incapacità della classe dirigente, a partire proprio dal sito di Bucita, che oggi è sede di impianto e discariche. passando per Olivellosa e Sant'Irene a Rossano. È per questo che, pur riconoscendo nella speculazione privata la causa da estirpare delle centinaia di contraddizioni negli iter procedurali degli impianti, non è intestandoli al pubblico che se ne limitano le conseguenze, per esempio la localizzazione in zone DOP, senza strade di accesso, prossima a falda acquifere, eccetera. Il nostro progetto cristallino e alla luce del sole non è gradito a una parte della nostra società, che vorrebbe avallare invece la trasformazione della nostra terra nella discarica e periferia industriale del resto d'Europa, evidentemente per meri interessi personali o di apparato, e questo non fa che qualificare magistralmente la nostra proposta. Tuttavia, il clima di tensione creato nelle ultime settimane ci ha indotto a chiedere ufficialmente un incontro al prefetto di Cosenza per delucidazioni a tutela dell'incolumità dei cittadini e degli associati. Di certo questo non cambia di una virgola la nostra documentata proposta per uscire dall'emergenza e per un nuovo ciclo di rifiuti al servizio dei cittadini. E questa è una nota diramata dalla rete difesa del territorio Franco Nistico. E sempre a proposito di questo argomento, leggiamo un'ulteriore nota sempre della RDT, della rete difesa del territorio Franco Nistico, che ci ricorda ancora altre questioni. Con disarmante puntualità, quando c'è da difendere con i denti gli interessi collettivi del territorio, arriva la presa di posizione di sigle sindacali locali a favore di interessi privati e parziali. Era accaduto già nella vicenda della riconversione della centrale di Sant'Irene, laddove alcune sigle sindacali avevano rivestito il ruolo di difensori degli interessi di Enel e disgregatori sociali, facendo leva, come sempre, sul decennale ricatto del lavoro che grava sulla testa del territorio, tentando goffamente di favorire progetti strampalati e devastanti. Quanto accade oggi però è ancora più grave, in quanto l'attuale sistema di rifiuti basato su discariche e inceneritore scippa al territorio centinaia di posti di lavoro realizzabili con la raccolta differenziata porta a porta, a fronte di inutili soluzioni temporanee, dannose nei confronti dell'economia del territorio e devastanti da un punto di vista ambientale e sanitario, come le discariche, come la discarica di Scalaceli, la quale non ha ricevuto le necessarie autorizzazioni da parte di enti provinciali e regionali. Ma del resto, questi sindacati lo sanno bene, infatti chiedono l'intervento del commissario all'emergenza ambientale, il quale quindi dovrebbe agire in deroga alle norme di tutela sanitaria e ambientale. In pratica queste sigle si ergono a veri e propri conservatori nei confronti di un sistema dei rifiuti che la commissione parlamentare d'inchiesta, presieduta dall'onorevole Pecorella, non esita a definire un sistema di potere non estraneo a interessi politico malavitosi. Ci chiediamo come mai invece questi strenui difensori dei lavoratori da anni restano in silenzio nei confronti della vera e propria truffa che si consuma all'impianto di trattamento di Bucita, il quale è sistematicamente guasto e non produce nulla di quello che dovrebbe produrre, seppure viene pagato copiosamente da Comune e Regione con i soldi dei cittadini. Eppure questo impianto sarebbe in grado di diminuire del 40-50% la quantità di rifiuti da conferire in discarica, permettendo i dovuti tempi, 6 mesi, di utilizzare gli impianti già in esercizio fino alla implementazione della raccolta differenziata, quindi alla creazione di un indotto lavorativo di centinaia di posti in un ciclo dei rifiuti sostenibile e molto più economico per le casse dei comuni. Pensare che in altre parti della regione le stesse sigle sindacali si schierano palesemente contro progetti inquinanti e dannosi nei confronti dell'economia del territorio, come nell'area grecanica, nella Locride, nella Sila catanzarese. Nell'interpellare le direzioni territoriali e regionali sulla compatibilità di questa linea antipopolare e da preistoria del sindacato, intendiamo rassicurare cittadini e lavoratori attraverso la partecipazione di tutti, permettendo altri abusi sul nostro territorio, e non favoriremo altri ricatti. Difenderemo i posti di lavoro favorendo la creazione di nuove possibilità occupazionali grazie a un ciclo dei rifiuti virtuoso. E questa è ancora un'altra nota della rete difesa del territorio Franco Nistico, che parla appunto della questione della discarica di Scalaceli in provincia di Cosenza, che appunto si vorrebbe riaprire, e sulla quale insomma alcune note di alcuni sindacati insomma hanno tentato di lanciare delle strane affermazioni. E intanto vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Indie Radio, il programma di informazione indipendente che va in onda ogni venerdì alle ore, generalmente alle ore 21, su Radio Transizione di Fase, ma questa sera siamo andati in onda con qualche ora di anticipo per dei motivi tecnici. Ora parliamo invece, sempre nella Sibaritide, di quello che sta accadendo agli scavi di Sibari. Già nella volta scorsa vi abbiamo parlato di questa esondazione del fiume Crati che ha distrutto, e che ha, scusatemi, che ha, però forse distrutto sarebbe anche un termine da utilizzare, che ha comunque allagato gli scavi archeologici di Sibari. Bene, questi scavi, ve lo ricordavamo nella scorsa puntata di Indie Radio, sono degli scavi che soprattutto negli anni 60-70 sono stati riportati alla luce non solo da studiosi italiani ma anche tedeschi e poi in seguito olandesi, e che testimonia la presenza di una cittadina romana, di una città romana, altro che cittadina, che era stata costruita su un precedente sito greco, quindi degli scavi molto importanti che nel corso del tempo comunque non hanno visto sicuramente un progetto unitario di valorizzazione. Certamente ci sono stati e ci sono degli studi, c'è anche il museo della Sibaritide, però tutto ciò non ha impedito al fiume Crati di esondare questo luogo della storia calabrese, e quindi ci saranno sicuramente delle responsabilità. Erano al lavoro da tempo, insomma, dei sistemi di drenaggio dell'acqua, ma qualcosa sicuramente non avrà funzionato, e quindi oggi ci troviamo con questo sito archeologico ancora invaso dall'acqua. Sicuramente non si può togliere subito l'acqua, perché altrimenti significherebbe far solidificare il fango e quindi aumentare il disastro. Però a questo punto è intervenuto Caligiuri, l'assessore regionale ai beni ambientali nonché all'istruzione, che promette dei soldi, anzi dice che erano già stanziati da ottobre 5 miliardi di euro da parte della regione Calabria. Ora questi soldi si potranno, per quanto è necessario, essere utilizzati per il recupero e il ripristino degli scavi. Beh, staremo a vedere che cosa succede. Intanto da un punto di vista nazionale, insomma, si parla anche di altri fondi, eccetera, eccetera. Però l'attenzione su questa questione certamente non dovrà decadere. E soprattutto auspichiamo da questi microfoni che ci sia una presa di coscienza popolare per la tutela di questi beni. Ci sono stati nel corso dei giorni anche alcuni appelli, alcuni giornali, il Quotidiano della Calabria, per esempio, ha lanciato un appello che molti hanno sottoscritto. Staremo a vedere. Noi auspichiamo che si crei una vera e propria campagna di solidarietà, nel senso che è soprattutto di lavoro da svolgere in questi luoghi, quindi pensiamo che anche il lavoro dei volontari che magari giungeranno a Sibari potrà essere utile e non certamente dannoso, un po' come accadeva per esempio a Firenze negli anni 60 con l'alluvione, quando migliaia e migliaia di persone da tutta Italia giungevano per salvaguardare Firenze. Ebbene, la questione di Sibari a noi pare che sia, a parte che è grave quello che è successo in sé, quindi l'esondazione del Crati, ma che ha certamente, dicevamo, delle responsabilità, però è pur vero che diciamo la questione è che a nostro avviso doveva giungere alle cronache nazionali, diciamo che è partito un po' in sordina. Oggi se ne continua a parlare, ma la questione è veramente, veramente molto grave, anche perché i danni non è possibile al momento con tutta probabilità quantificarli. Bisognerà attendere, insomma, che si inizi a effettivamente a lavorare, per non tanto per la questione dell'acqua, che in parte è stata prosciugata ma non totalmente come dicevamo prima, ma bisognerà capire, insomma, il fango che cosa ha portato via. Ci sono per esempio delle zone con degli affreschi, e quindi pensiamo che il fango, insomma, non avrà fatto sicuramente bene a questi reperti. Noi pensiamo che sia anche molto probabile che alcune cose saranno andate perse in maniera irrecuperabile, ci auguriamo di no, però il danno è veramente molto molto grave. E ora vediamo, insomma, questo salvatore della patria Caligiuri che cosa farà. E intanto, sempre parlando di Caligiuri, ricordiamo questa sua proposta, insomma, di unificare, di creare questi testi unici, perché in Calabria in materia, diciamo, di istruzione, sia per quanto riguarda la scuola che l'università, esistono oltre 50 norme, e ora Caligiuri vuole raggrupparle in 4 testi unici. E l'idea potrebbe anche essere interessante, ma che cosa succede? Per esempio abbiamo letto una nota dell'USB Calabria dove si denuncia c'è qualcosa di da tener presente, ovvero quando Caligiuri parla di questi testi unici, in realtà sta parlando di qualcosa che è stato già realizzato. Se noi andiamo sul sito della Regione Calabria possiamo vedere già la bozza dei testi unici, e ora invece magari si farà qualche tour, diciamo così, fra gli attori sociali, fra chi insomma vive il mondo dell'istruzione, per ottenere consensi. Ma sta di fatto che la bozza dei testi è già pronta, quindi sarebbe stato molto più interessante invece prima consultarsi e rapportarsi con il territorio, con chi vive questo ambito, e poi magari creare le bozze e poi avviare dunque l'iter burocratico. Invece si procede al contrario. Un altro dato inquietante di questi testi unici, forse il più inquietante, ma insomma a pari merito diciamo, è che in realtà in questi testi unici, quando si parla di finanziamento alle scuole da parte della regione, quindi in base alle competenze regionali, si parla in maniera esplicita di scuole pubbliche e paritarie. Quindi che cosa significa? Significa che stiamo andando verso un aumento probabilmente insomma dei finanziamenti regionali anche alle scuole private, e sappiamo bene che in un panorama come quello calabrese, dove ci sono enormi difficoltà anche nel campo dell'istruzione, continuare a foraggiare anche gli istituti privati, le scuole private paritarie è certamente qualcosa di scandaloso, hanno avviso. Già per quanto ci riguarda è scandaloso che esistano delle scuole paritarie che ricevono, come ben sapete, soldi pubblici. Quindi ci sono delle scuole private che gestiscono per esempio a loro modo i lavoratori, quindi non per insegnare nelle scuole private non è necessario per esempio seguire una graduatoria, si chiama un lavoratore in base a non si sa quali principi, basta essere laureati e si va a lavorare in queste scuole. Ma d'altro canto queste scuole ricevono i soldi pubblici, quindi c'è veramente, questo a livello nazionale ovviamente, quindi c'è veramente una discrepanza abbastanza evidente. E in più chi va a prestare servizio nelle scuole private accumula comunque del punteggio utile poi per lavorare nelle scuole pubbliche. Quindi ci chiediamo, se non si segue un criterio di nomina per i docenti, per i lavoratori all'interno delle scuole private, per quale motivo poi questi stessi lavoratori che lavorano nell'ambito privato con i soldi pubblici fra l'altro, per quale motivo poi devono accumulare, diciamo così, dei diritti, devono maturare dei diritti anche nelle scuole pubbliche? Sinceramente la cosa è abbastanza strana. A questo punto, se le scuole private ricevono dei soldi dallo Stato e ora Caligiuri spinge per far sì che anche dalla regione giungano dei finanziamenti, a questo punto sarebbe necessario che le scuole private si regolassero per quanto riguarda il trattamento in tutti i sensi dei lavoratori in base a quelle che sono le norme che regolano anche i lavoratori all'interno delle scuole pubbliche, oppure chi lavora nelle scuole private lavora lì e basta, insomma, e magari riceve salario, cosa che non che sapete bene, insomma, come molte indagini giornalistiche hanno dimostrato nel corso del tempo. Ci sono delle scuole private dove si maturano punteggio utile per le scuole pubbliche, ma non si percepisce salario, o se ne percepisce meno. In pratica si firma una busta paga da 1000 euro, per esempio, da 1000-1200 euro, e non si riceve alcun denaro, e addirittura c'è chi è costretto anche a pagare da sé i contributi, che dovrebbero essere invece versati dall'istituto dove presta servizio, dall'istituto privato. Quindi questo è un dato veramente scandaloso. E ora ci pensa Caligiuri alla Regione Calabria, che vuole unificare questi testi, ha già preparato le bozze e parla esplicitamente di scuole pubbliche e private. Non capiamo perché i soldi del pubblico dovrebbero ancora andare a finire alle istituzioni private, laddove soprattutto esistono anche le scuole pubbliche che invece sono un bene da conservare e da tutelare, perché garantiscono un'istruzione o dovrebbero garantire un'istruzione laica, malgrado insomma sia presente l'insegnamento della religione cattolica, che noi osteggiamo fortemente da questi microfoni, lo diciamo senza timore di smentita. Malgrado tutto ciò, comunque le scuole pubbliche subiscono stanno subendo sia a livello nazionale che regionale una forte devastazione. Infatti, mentre per esempio in altre regioni come l'Emilia Romagna, l'Umbria, la Puglia, le regioni hanno stanziato dei fondi per dar vita a dei progetti all'interno delle scuole e quindi per favorire l'offerta formativa e favorire anche l'impiego dei tanti e tanti docenti precari rimasti senza lavoro grazie alle ultime riforme, la Gelmini in particolare, ma non solo. E quindi in alcune regioni è possibile avere dei fondi, in altre come la regione Calabria no. Attualmente infatti il progetto, la missiva che Caligiuri insomma aveva inviato alla regione, al ministero a Roma, al MIUR, pare che non abbia avuto esito, quindi i fondi per i progetti all'interno delle scuole finanziati dalla regione in Calabria attualmente non hanno luogo, non esistono quindi. In alcune regioni sì, in altre no, però magari, visto che quest'anno non è stato possibile avviare i progetti regionali, magari l'anno prossimo con questi testi unici si avvieranno nelle scuole anche private. Bah, è veramente inquietante tutto ciò. Bene, intanto vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Radio Transizione di Fase e questa è Indie Radio. E vi ricordo che potete ascoltarci sempre ogni venerdì alle ore 21. Quest'oggi siamo andati in diretta un po' prima per motivi tecnico-logistici, diciamo pure così. Ringraziamo i nostri 7 ascoltatori, 12, i nostri 12 ascoltatori. Grazie ragazzi di ascoltarci. Intanto... continuiamo con un'altra notizia che proviene sempre dalla regione Calabria. Infatti volevamo ricordarvi quest'ultima notizia che ai noi non troviamo. Oh, che bello! Va bene, in pratica è questo appello che potete trovare che potete sottoscrivere su questo appello da sottoscrivere in merito alla campagna Il 15 settembre c'ero anch'io. Tutti quanti voi forse ricorderete che il 15 settembre sulla tratta ferroviaria dello Ionio Cosentino si è avuta una manifestazione volta a denunciare il cattivo funzionamento di questa linea ferroviaria, lo smantellamento vero e proprio di questa linea ferroviaria. Molte stazioni vengono chiuse, vengono dismesse, e la linea addirittura non è elettrificata, quindi è veramente molto difficile spostarsi in quella zona della Calabria attraverso le ferrovie. Quindi alcuni movimenti, alcune associazioni, molti cittadini hanno preso, circa un centinaio, avevano preso parte ad una manifestazione nelle scorse settimane attraverso la stampa, solo attraverso la stampa, è giunta questa notizia, ovvero 14 persone sono indagate per questo avvenimento. Ancora non è arrivata a casa di nessuno alcuna notifica, quindi in realtà non si sa chi è stato denunciato. Fatto sta che solo attraverso la stampa insomma è stato diramato questa notizia. E molte associazioni come Terre e Popolo, come le Lampare di Cariati, come la Scata Catascia di Francavilla hanno avviato questa campagna per denunciare insomma questo clima di tensione che viene continuamente fomentato nello Ionio Cosentino, ma un po' in tutta la Calabria. Insomma, questo clima repressivo dunque deve cessare, e di questo siamo convinti. Quindi chiunque vuole la propria può farlo, chiunque vuole sottoscrivere questo appello può farlo recandosi all'indirizzo terrepopolo.noblogs.org. Quindi è stata lanciata questa campagna, molte realtà, molte associazioni hanno già aderito, quindi vi invitiamo da questi microfoni a prendere visione integrale di questo comunicato, di questo appello, e vi invitiamo a fare propria, se volete ovviamente, non è mai un comando, perché ci guarderemmo bene da comandare qualcosa. Quindi chiunque vuole può sottoscrivere questo appello, che è importante, perché chi rimane nella nostra terra, chi rimane in Calabria, ma anche no, e comunque chi lotta per la difesa del proprio territorio, per la difesa dei diritti dei cittadini, non deve essere represso, non deve essere minacciato, ma deve essere sicuramente sostenuto e affiancato. Quindi va anche da questi microfoni la nostra vicinanza e complicità a tutte le persone coinvolte in questa vicenda, anche perché tutti quanti noi dovremmo sentirci direttamente coinvolti, perché la difesa dei nostri territori dovrebbe essere un patrimonio, ed è per molti, non per tutti sfortunatamente, un patrimonio collettivo. Dunque, queste erano le notizie di oggi di Indie Radio, di questo programma di informazione indipendente. Intanto un'ultima cosa, come dicevamo prima d'apertura dei microfoni, avrete notato sicuramente che Radio Transizione di Fase ultimamente, diciamo così, vive un periodo di stasi, diciamo, di quiescenza. C'è qualche programma, facciamo qualche diretta durante alcuni appuntamenti importanti, però a breve risolveremo i problemi tecnici che ci attanagliano, quindi avete capito che ormai io sono l'emblema del problema tecnico, ma non a caso diciamo così presto la mia opera all'interno di Radio Transizione di Fase. Però l'appello che vogliamo lanciarvi è il seguente: chiunque è interessato per esempio a realizzare dei programmi radio può farlo contattandoci, quindi se avete intenzione di fare un programma musicale, di informazione, di approfondimento che tratti di qualsiasi argomento, non vi resta che andare sul nostro sito transizionedifase.org, leggere chi siamo, capire insomma come funzioniamo, quali sono i nostri principi, perché noi non siamo una radio che ha un luogo fisico, siamo un po' sparsi in tutto il mondo e non abbiamo una sede, ma abbiamo delle idee che ci accomunano e ci auguriamo che queste idee accomunino anche voi che ci state ascoltando, anche voi che vorrete proporci dei programmi. Quindi se volete proporci dei programmi, leggete il nostro sito se non lo conoscete già e poi proponeteci dei programmi, saremo ben lieti di accogliere su queste frequenze i nuovi programmi che si vorranno concretizzare qui su Radio Transizione di Fase. Quindi nelle prossime settimane siamo fiduciosi di poter ritornare con la nostra musica. Oggi invece molte volte ascoltando Radio Transizione di Fase ascoltate anche Radio Onda Rossa, che comunque salutiamo e ringraziamo fortemente per il supporto che ci dà. Però insomma ci piacerebbe ritornare alla nostra piena attività e siamo sicuri e speranzosi che questo accadrà ben presto. Quindi bene, non ci resta che salutarvi e ricordarvi che questa è Indie Radio, il programma di informazione indipendente che una volta era curato dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media, oggi è curato da un collettivo di Indie Radio e infatti abbiamo anche lavorato per la creazione di un blog che racchiude tutti i nostri podcast per il momento, ma presto speriamo raccoglierà anche tante altre notizie e informazioni sia calabresi che nazionali che internazionali. Informazioni che in genere non trovano spazio sul mainstream e alle quali noi vogliamo dare voce. Quindi anche da questi microfoni vogliamo lanciare un altro appello ulteriore, quindi è il momento degli appelli, come avrete capito, un appello ulteriore: chiunque vuole può partecipare alla creazione di Indie Radio segnalandoci notizie, cosa che già accade in realtà. Quindi segnalateci delle notizie o contattateci e noi saremo ben lieti di lavorare insieme. Intanto vi ricordo l'ultima cosa, insomma il link di questo blog che stiamo costruendo è indieradio.noblogs.org. Quindi visitate questo sito, troverete tutti i nostri podcast dalle primissime puntate per passare poi agli speciali di Indie Radio, alle varie dirette che abbiamo realizzato e per arrivare insomma ai giorni nostri. Bene, io vi saluto e vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Radio Transizione di Fase. Questa era Indie Radio, il programma di informazione indipendente che potete ascoltare ogni venerdì alle ore 21. Questa sera siamo andati un po' prima in diretta per motivi tecnico-logistici, come dicevamo. Però ricordavo anche un'altra cosa: siccome Indie Radio è un progetto aperto, è un progetto anche molto molto nomade che viene fatto un po' ovunque, Indie Radio va in onda anche ogni giovedì alle ore 18 su Fuori Onda Radio. Fuori Onda Radio è una radio del collettivo che nasce dal collettivo P2 dell'aula P2 occupata dell'Università della Calabria. Quindi ogni giovedì alle ore 18, se non avete niente da fare, ascoltate Fuori Onda Radio, oppure se proprio volete fare una cosa bellissima, venite alla P2 al cubo 40 di ingegneria e ci troverete lì a tenere questo programma, un programma che insomma vuole dare voce a tutti in base ovviamente alla nostra policy editoriale. Non accettiamo fascisti, omofobi e razzisti di ogni sorta, nonché fascisti ovviamente, che racchiudono tutti questi altri insulti, quelli che sono evidentemente degli insulti all'intelligenza dell'essere umano. Comunque, insomma, questa sera doveva anche essere presente la nostra rubrica Figli di. Ricorderete infatti che Figli di era un programma curato all'interno delle Officine Babilonia. Quest'anno abbiamo deciso di fondere i due programmi, visto che insomma facciamo Indie Radio su due radio, abbiamo pensato di fondere Indie Radio con Figli di. Quindi Figli di è il momento dello sclero totale e è la rubrica insomma finale di Indie Radio. Questa sera, anche perché siamo senza musica da un po' di tempo, sempre per problemi tecnici che ci attanagliano, questa sera Figli di, insomma, diciamo che è stata relegata all'angolino proprio più basso della nostra trasmissione e in questo momento possiamo proprio dirlo, siamo su Figli di. infatti vogliamo anche lanciare insomma questo appello, ma siamo figli di chi? Noi non lo sappiamo, siamo figli di ignoti genitori, no, non è vero, siamo figli del nostro tempo. Siamo figli anche di queste radio e siamo figli anche di tante persone che abbiamo incontrato nel corso della nostra storia e che ci hanno insegnato molte cose e ricordiamo anche un'ultima cosa che da un po' di tempo che non ricordiamo ma ci piace sempre farlo, figli di Indie Radio, Transizione di Fase Stessa, sono anche figlie del nostro caro, amato e indimenticato Ciccio Svelo. È proprio grazie a lui che insomma ci siamo messi con più passione a fare radio e abbiamo capito quanto sia bello fare radio. Quindi Ciccio Svè, se ci stai ascoltando, vorremmo brindare alla tua salute. Non lo possiamo fare perché non abbiamo niente con cui brindare, sinceramente. Però ti assicuriamo che ogni volta che ci mettiamo che prendiamo un microfono in mano e cominciamo a parlare, la tua immagine ci ritorna alla mente, l'immagine di Ciccio Svelo che parla ai microfoni davanti a te e dice: voglio sono un po' nervoso. Va bene, momenti indimenticabili e indimenticati che mai dimenticheremo. Comunque, io direi che è veramente tutto. Alle 19:40 possiamo chiudere i microfoni di Indie Radio. Vorremmo continuare a parlare, in realtà se avessimo un po' di musica forse lo faremmo, ma niente musica questa sera. Niente, dai, io direi che è giunto proprio il momento, anzi noi, perché ci piace questo plurale maiestatis che utilizziamo sempre, sempre, sempre, sempre. Dunque, è giunto davvero il momento finale e conclusivo. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo venerdì, probabilmente alle ore 21, non lo sappiamo però, è possibile anche che cambieremo totalmente gli orari di Indie Radio. Vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Radio Transizione di Fase e rinnovo l'appello e l'invito, se volete fare delle trasmissioni su Radio Transizione di Fase non vi resta che contattarci all'indirizzo transizionedifase.org, ma se evidentemente state ascoltando la radio conoscete bene l'indirizzo. Dunque su Radio Transizione di Fase ci sentiamo il prossimo venerdì, mentre il prossimo giovedì alle ore 18, in realtà ora che ci penso, il prossimo giovedì alle ore 18 Radio Transizione di Fase non sarà su Fuori Onda Radio, a meno che non ci sia qualche sostituto, cosa che dubito fortemente. Quindi il prossimo appello con Indie Radio, il prossimo appuntamento, scusate, appelli. Il prossimo appuntamento con Indie Radio sarà venerdì alle ore, probabilmente ore 21, sempre qui su Radio Transizione di Fase, mentre il prossimo giovedì, per motivi diciamo tecnico-logistici molto seri, noi non saremo in onda su Fuori Onda Radio. Quindi salutiamo da questi microfoni anche gli amici di Fuori Onda Radio e grazie per averci ascoltato. Ci sentiamo alla prossima.